Seduti, seduti, ragazzi. Ora, dove eravamo? Bene, ero arrivato al punto in cui il pene entra nella vagina? Considereremo i preliminari come già fatti, se non spiace. No, certo che no, Alfred. Dunque, l'uomo comincia a penetrare o a montare la sua signora moglie nel modo normale. Il pene ora è, come osserverete, più o meno in piena erezione. Ecco qua. Ah, così va meglio.